Il diario di Q. Venezia, 16 novembre 1548. Visita al Caratello. Ludwig Schalidecker, o Don Ludovico, il gestore, non c'era. È partito, non si sa per dove. Domande buttate qua e là. Non voglio insospettire nessuno. Ricordi più nitidi. Eloisius de Schalidecker, Wittenberg, più di 20 anni fa. Un uomo venne a sfidare Lutero e Melantone. Fece parlare di sé in tutta l'università per le sue idee bizzarre sul peccato e sulla perfezione. Forse veniva dai Paesi Bassi o dalle Fiandre, non ricordo più. Reperire informazioni, scrivere all'Inquisizione di Amsterdam e Anversa. Servirebbe una raccomandazione di Carafa, e questo significherebbe metterlo a parte dei miei sospetti. Ci vorrebbero comunque mesi. Continuare le ricerche qui a Venezia, tenere d'occhio il Caratello in attesa che torni. Scrivere agli inquisitori di Milano, Ferrara e Bologna per avere nuove informazioni su Tiziano l'Anabattista. Lettera inviata a Roma da Venezia, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 17 novembre 1548. All'illustrissimo e onorandissimo Giovanni Pietro Carafa. Mio signore, mi raggiunge proprio quest'oggi la vostra urgentissima comunicazione. Riceverete questa mia al massimo 2 giorni prima del mio arrivo a Roma. Sarò a disposizione da subito per i compiti che la vostra signoria vorrà affidarmi. È mio dovere e desiderio informarvi che l'improvviso peggioramento della salute di Papa Farnese mi allontana, con un dispiacere che non nascondo, da una pista feconda in merito alla diffusione del beneficio di Cristo. È mia presunzione immaginare che nei piani di vostra signoria, per ostacolare Reginaldo Polo, ci sia proprio la questione di quel trattatello. Confido quindi che il precipitare degli eventi comporti soltanto la sospensione dell'indagine che ormai da mesi vado concludendo, poiché essa è ancora lontana dall'essere conclusa e dall'aver esaurito il suo interesse. Fidando nella velocità dei destrieri italiani, per poter essere quanto prima a vostra disposizione, bacio le mani di vostra signoria. Di Venezia, il 17 novembre 1548. Il fedele di vostra signoria, Q.